Globetrotter 24 di Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ultima puntata per questa stagione di Globetrotter. Nel mese di luglio vi accompagneremo con il meglio delle destinazioni italiane che vi abbiamo raccontato in questi strani mesi. Il sommario. Questa settimana andiamo in Calabria, vi portiamo nella Sila e poi all'interno della Sila nel borgo di Taverna. E poi torniamo in Lombardia per andare a scoprire come ha riaperto un piccolo museo a noi molto caro, il Tattile di Varese. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. Nei nostri giri in giù e in su per l'Italia l'abbiamo un po' trascurata, ma oggi recuperiamo, parliamo di Calabria. Sarebbe troppo facile parlare del mare calabrese, per il quale gli aggettivi non si contano più. Noi vogliamo parlare della Sila, un enorme parco che racchiude tante possibilità. Daniele Donnici, responsabile di Destinazione Sila. Destinazione Sila è una rete di imprese che è nata per migliorare l'organizzazione turistica all'interno del Parco Nazionale della Sila, una sorta di DMO bottom up. Sono gli operatori che hanno preso a cuore le sorti turistiche di questo territorio, cercando di organizzare l'offerta turistica al meglio di un posto straordinario. Siamo nel Parco Nazionale della Sila, che è area MAB UNESCO, un bosco di 74.000 ettari nel cuore del Mediterraneo, un luogo dove le vacanze a contatto con la natura permettono di fare tantissime attività, sia outdoor ma anche attività di puro relax a contatto con la natura. Possiamo dare qualche spunto, perché essendo un parco così grande, avendo tutte queste possibilità appunto di vivere la natura fino in fondo, danno anche quella sicurezza che magari quest'anno più che in altri anni viene sentita da chi si sposta. Sì, la stagione estiva è praticamente una sorta di palestra a cielo aperto. Il Parco Nazionale della Sila ha oltre 600 chilometri di sentieri tracciati, quasi tutti ombreggiati grazie a questi maestosi pini larici, quindi un luogo ideale dove fare trekking, nordic walking, ma anche passeggiate ed escursioni in bicicletta, in mountain bike. Disponiamo di molti servizi per questo tipo di attività, quindi dai noleggi per delle biciclette anche a pedalata assistita, i servizi di guida, i servizi di assistenza anche con i transfer da e per i luoghi dove si svolgono queste escursioni. Così come sul lago Arvo a Lorica, siamo in provincia di Cosenza, abbiamo una molteplicità di attività da svolgere sul lago, un attrezzato centro di canottaggio, la possibilità di fare un'escursione a bordo di un battello elettrico, ma anche moderni attrezzati parchi avventura in un contesto naturale dove tutto avviene tra gli alberi, tra queste specie di pino laricio che in Sila raggiungono altezze di oltre 45 metri con dei fusti molto, molto diritti, e sono loro che ci garantiscono quest'aria così interessante, così salubre, che dà subito una condizione di benessere. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a ship out through my veins. Now we're going shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. È un luogo quindi dove fare veramente delle vacanze serene, tranquille. Ciascuno trova poi il suo percorso, la sua specificità, dalle famiglie con bambini a giovani, adulti che amano un turismo più attivo e anche a chi invece è interessato a scoprire il territorio, a vivere di questo microclima molto molto gradevole che si accompagna sempre e si incrocia sia con il patrimonio storico e culturale calabrese, quindi abbiamo i borghi silani che offrono degli elementi di grandissimo interesse. Ecco, la voglio interrompere proprio su questo, perché in fondo la Sila forse non è ancora conosciuta come dovrebbe, come meriterebbe. E allora io le chiedo se secondo lei ci sono dei posti all'interno della Sila che vale particolarmente la pena di andare a vedere. Capisco che tutto sarebbe bellissimo da vedere, però se lei dovesse scegliere alcuni punti all'interno del parco, quali sceglierebbe? Sicuramente metterei il centro visite Cupone, che è la struttura principe del Parco Nazionale della Sila, una struttura con una rete sentieristica importante, con i recinti faunistici, un museo della biodiversità. È una struttura dove è rappresentata una sintesi dell'intera realtà del Parco Nazionale della Sila, della sua flora, della sua fauna. Un'altra riserva da non perdere assolutamente è quella dei giganti della Sila, in località Fallistro, che è attualmente gestita dal FAI, dal Fondo Ambiente Italiano. Parlando di borghi e di cultura, abbiamo sul nostro territorio la straordinaria realtà dell'Abbazia Florense, che è legata alla figura di Gioacchino da Fiore, un viaggio nel pensiero di questo autorevolissimo filosofo della Chiesa dei primi del 1100, che è citato anche nella Divina Commedia da Dante. Come anche un'altra meta di straordinario interesse è il borgo di Longobucco, un borgo medievale dove si tramandano delle straordinarie storie e tradizioni legate all'arte tessile, ma anche alla via delle miniere e quindi agli argenti che sono ancora rintracciabili all'interno del museo civico di Longobucco. Visto che voi raccogliete le aziende che lavorano sul territorio, di qualunque settore poi si parli nello specifico, le volevo chiedere se avete in qualche modo adottato un protocollo comune per le misure che sono richieste anche da un punto di vista sanitario. Guardi, sicuramente siamo molto, molto attenti a questa materia, lo sono già le singole aziende, i singoli operatori che sono impegnati ad adeguare la propria offerta a tutti gli standard richiesti. Lo stiamo facendo anche insieme come rete, come destinazione, come territorio, ma noi riteniamo che questo sia un territorio che ha delle caratteristiche naturali per svolgere, diciamo, delle vacanze in assoluta tranquillità. Sicuramente abbiamo anche degli strumenti che favoriscono la conoscenza di tutto ciò che è stato posto in essere da questo punto di vista, proprio per offrire la massima serenità agli ospiti, e lo stiamo facendo sempre di più in una logica integrata. Quindi Destinazione Sila è una rete di operatori, quindi di imprese ricettive, quindi alberghi, agriturismi, dimore storiche, ma anche servizi, quindi di attrazione turistica, ma anche di tutti gli operatori che sul territorio rappresentano dei veri e propri presidi. Mi riferisco per esempio alle guide ufficiali del parco con le quali collaboriamo e ci confrontiamo ogni giorno, ma anche alla realtà delle proloco, che in molti casi rappresentano dei punti di accesso, diciamo, ai nostri territori. E quindi insieme anche agli enti locali, all'ente Parco Nazionale della Sila, con il quale abbiamo un costante rapporto di collaborazione, di sinergia, perché tutto poi sia armonico e coerente rispetto all'obiettivo di offrire delle vacanze serene e rigeneranti. Un invito riuscito anche a scoprire questo territorio anche durante le stagioni autunnali e invernali, dove l'offerta cambiano i colori, cambiano i prodotti che si possono trovare. Per esempio l'autunno, per gli appassionati del paesaggio, è una stagione nella quale si può ammirare un foliage meraviglioso, perché per la varietà delle specie che sono presenti sul territorio, il territorio si colora di una varietà di tonalità che vanno dal verde al giallo, all'arancione, al rosso, al marrone, ed è una sinfonia proprio di colori. La stagione dei funghi è quindi un'occasione anche per gustare piatti veramente unici. Con l'inverno la Sila, come altopiano, quindi dolce, rilievi molto gradevoli, è un po' l'ideale per tutto il turismo invernale, anche più lento, per le escursioni che si possono fare con le giaspole, con gli sci da escursionismo, ma anche per lo sci di fondo. E poi un ultimo elemento che anche in inverno è molto molto caratteristico è il treno storico a vapore, che consente di fare una tratta veramente al pari di un viaggio nel tempo, con il locomotore a vapore e le carrozze, esattamente come viaggiavano già quasi un secolo fa. Che tragitto fa questo treno a vapore? Il treno parte da Camigliatello Silano e arriva fino a San Nicola Silvana Manzio. Sono 14 chilometri, è una tratta molto panoramica, molto bella, e lì poi avviene una cosa straordinaria, perché il locomotore si stacca dal convoglio, arriva su una piattaforma rotante, e sono gli addetti al treno, appunto, che a volte anche insieme, aiutati dai passeggeri, svolgono una manovra manuale per ruotare la direzione del locomotore, poi si rimette nella giusta direzione per rientrare verso Camigliatello, perché poi la tratta ferroviaria è a binario unico. Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi. Globetrotter 24. Restiamo in Calabria perché tra i molti borghi all'interno del Parco della Sila ce n'è uno che è anche bandiera arancione del Touring Club. Si tratta di Taverna e il suo sindaco è Sebastiano Tarantino. Tre parole per descrivere il borgo di Taverna: arte, patria di Mattia Preti, e quindi cultura e ambiente, in quanto si trova all'interno del Parco Nazionale della Sila. Sindaco, andiamo un po' più a fondo. Lei ci ha parlato di arte, di cultura, di ambiente. Da dove vorrebbe cominciare per descriverci un po' meglio il suo borgo? Iniziamo dal figlio più illustre, che è Mattia Preti, quindi uno delle punte del 600. Noi come comune, come borgo, abbiamo il Museo Civico, dove si possono trovare all'interno delle tele di Mattia Preti, così come anche nella chiesa monumentale di San Domenico e nella chiesa di Santa Barbara. Infatti il grosso delle iniziative culturali del nostro borgo ruotano intorno alla figura di Mattia Preti. Noi siamo reduci di importanti manifestazioni e di mostre di livello non solo regionale e nazionale, ma anche conosciute e apprezzate fuori dai confini nazionali. Ultima, un confronto tra Mattia Preti e Guercino, grazie a una splendida collaborazione con il Comune di Cento. Due importanti manifestazioni: una è stata già si è già svolta, che è un partenariato che abbiamo con l'Orientale di Napoli. Abbiamo fatto una mostra sul 600 napoletano, mettendo a confronto anche delle opere di Mattia Preti, ed è in corso di definizione. Ci siamo un po' rallentati per l'emergenza Covid, un'altra importante iniziativa sul 700 napoletano, che ci vedrà ancora coinvolte insieme con l'Orientale di Napoli. Oltre poi a decine di eventi che ruotano attorno all'arte contemporanea. Da poco abbiamo inaugurato un padiglione di arte contemporanea, al cui interno ci sono oltre 250 opere, da Rotella anche, abbiamo delle opere di Rotella, personaggi diciamo conosciuti nell'ambito dell'arte, della pittura contemporanea. Lei accennava prima al fatto che il suo borgo è all'interno del Parco della Sila, quindi immagino che la natura abbia un grosso spazio, una grossa importanza nel vivere anche il comune. Sì, assolutamente. Il nostro comune ha un'estensione territoriale di 14.000 ettari, l'80% dei quali è al di sopra dei 500-600 metri. Quindi noi partiamo dai 525 del borgo fino a oltre 1900 metri. Gli esperti dicono che qui nel nostro territorio c'è l'aria più pulita d'Europa, quindi questo è un invito a tutti quanti per venire a scoprire i nostri territori e a soggiornare presso le nostre strutture ricettive. Si inserisce all'interno del Parco Nazionale della Sila. Abbiamo qui in Sila, oltre a Villaggio Mancuso, Villaggio Racise e le altre contrade, abbiamo anche il centro visite del parco nazionale. Da poco abbiamo anche inaugurato un'importante struttura che è la Città delle Scienze Ambientali, che è un complesso, un padiglione che attorno ai quali si possono trovare anche la fattoria didattica, campi da calcio, c'è anche delle scuderie, un maneggio, un angolo diciamo anche dedicato alla ristorazione, però una ristorazione che prevalentemente si incentra su base e su prodotti locali, quindi c'è tutta una serie di offerte per coloro che vogliono ammirare la nostra montagna. Sindaco, mi racconti però un po' più nel dettaglio proprio com'è camminare nelle strade del suo comune, perché è uno dei borghi arancioni, quindi del touring, che ha un suo peso come titolo, no? Sì, sì, sì. Camminare nei borghi, nel centro storico di Taverna, in molte zone rimane diciamo intatta quella che era Taverna degli anni 40, diciamo, alcune aree sono rimaste veramente diciamo intatte. Ci sono state delle opere di ristrutturazione, però il tutto ha rispettato quelli che sono i criteri e i crismi dettati dai regolamenti comunali, quindi non abbiamo avuto diciamo delle opere che hanno deputato quello che è l'ambiente e il borgo, quindi alla parte il centro storico è rimasto pressoché intatto, dicevo i regolamenti e comunali hanno funzionato, quindi l'essenza, l'anima del borgo si respira oggi come si respirava 50-60 anni fa. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Per l'ultimo appuntamento della stagione torniamo in Lombardia e andiamo a vedere cosa è successo mentre tutto era chiuso in quel museo dove sono nati i nostri racconti architettonici. Il Museo Tattile di Varese ha riaperto e ce lo racconta la direttrice, la nostra Livia Cornaggia. Torniamo a Varese perché mi sono accorta che sono passate 15 settimane nelle quali abbiamo attraversato un po' tutta l'Italia, abbiamo scoperto e raccontato bellezze più o meno conosciute e l'abbiamo fatto in un momento in cui i nostri orizzonti, Valeria, erano davvero piccini e facevamo un viaggiare solo e necessariamente con la mente. A questo punto, che si può viaggiare veramente, ti porto in un posto che secondo me è la somma di un sacco di posti, e che in ogni caso racconta di un modo diverso di conoscere la bellezza dell'arte, dell'archeologia, dell'architettura, che è il Museo Tattile Varese. Sono leggermente di parte nel raccontarlo, perché questo museo l'ho ideato e realizzato con i miei due soci, che sono Giorgio Caporale e Dede Conti, 10 anni fa, ma se è vero che io sono di parte, è vero che è anche, secondo me, un posto un po' speciale, perché permette in effetti di conoscere la bellezza del mondo con una modalità non abituale, che è quella del tatto, perché è un museo di soli modelli tattili in legno e quindi sono delle riproduzioni assolutamente perfette di monumenti, architetture, siti archeologici e quant'altro. È chiaro che in questo momento parlare di toccare le cose sembra una follia, perché il Covid in qualche modo ci ha privato quasi del senso del tatto. Però c'è da dire che anche prima della pandemia, rispetto alle opere d'arte, il tatto in qualche modo è sempre stato un tabù, quasi ci fosse una sorta di retropensiero per il quale la bellezza non si deve toccare, non si può toccare e deve continuare in qualche modo a rimanere irraggiungibile. Anche perché, Livia, c'è da dire che in qualsiasi museo tu vai, dappertutto c'è scritto si prega di non toccare. Eh sì, è proprio la prima scritta che si trova e io dico sempre ai nostri visitatori che è di fatto un tabù culturale ed è un tabù che il nostro museo chiaramente ha infranto e cerca costantemente di infrangere, perché da noi le opere esposte, quindi i modelli, si devono toccare e anche per un motivo più ampio, cioè che conoscere con più sensi, quindi come si dice in maniera multimodale, tra l'altro è una cosa che è stata dimostrata addirittura a livello encefalografico, è un modo per capire meglio, per capire più velocemente e soprattutto per ricordare di più quello che si conosce. Io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare. Canzoni per dimenticare. E poi c'è la componente emozionale, nel senso che nel momento in cui tocchiamo una cosa in qualche modo ce ne appropriamo, ci affezioniamo, non so come dire, e quindi nasce una sorta di relazione che in genere dura nel tempo. Quindi i nostri modelli tattili mirano in realtà anche a questo aspetto, a questa componente emozionale, e mirano a far affezionare alla bellezza dell'architettura, alla bellezza dell'archeologia, alla bellezza di tutto quello che l'uomo ha progettato e costruito nel corso dei secoli. E mirano anche a un'altra cosa, secondo me molto importante, cioè a creare una sorta di abitudine alla bellezza, che diventi una sorta di volano. Questo è più facile per noi perché una riproduzione in scala di un monumento è proprio una cosa facile, è molte volte molto più comprensibile della sua versione vera e si fa conoscere più velocemente e in maniera più esaustiva. Nel momento in cui inizio a conoscere uno stile, un'architettura, un edificio attraverso un modello piccolino, scatta in genere un fattore di curiosità, un elemento di curiosità e molte volte un desiderio di andare oltre, di andarla a visitare dal vero, di approfondire, di capire perché è stato pensato in un certo modo. Quando questo succede, significa che il nostro museo ha fatto bene il suo lavoro, perché è riuscito a creare una semina, a impostare un seme per poi far crescere l'interesse. Perché i musei tattili, e i musei tattili in tutta Europa sono due a parte il nostro, anche se nascono ovviamente originariamente per permettere a chi non vede di conoscere il mondo con le mani, in realtà vengono visitati soprattutto da persone che ci vedono, che proprio attraverso il tatto, proprio quindi conoscendo le cose attraverso il tatto, trovano un nuovo modo di sperimentare la bellezza e soprattutto l'emozione della bellezza. Volevo capire se in questi mesi di chiusura forzata a cui anche voi siete stati costretti, il museo si è arricchito di nuovi pezzi. Sì, Sì, il museo si è arricchito di un nuovo pezzo appena arrivato che è una bellissima domus romana e quindi che ci permette di capire come era fatta una domus romana, e poi si è arricchito di una serie di giochi tattili molto particolari e molto belli che sono nati per un progetto dedicato ai malati di Alzheimer e di demenza e che sono dei giochi tattili pensati per stimolare la manualità, per stimolare la concentrazione, e che, come spesso sono i nostri progetti, nati per un pubblico particolare di nicchia, sono in realtà interessanti, divertenti e utili per tutti i nostri visitatori. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Livia, da quando avete riaperto, con che modalità e quali misure avete dovuto adottare per ovviamente accogliere i visitatori? In un museo tattile più misure degli altri, Valeria, nel senso che abbiamo riaperto ovviamente con l'obbligo della mascherina come in Lombardia per tutti noi, con l'obbligo di indossare dei guanti usa e getta che mettiamo a disposizione dei nostri visitatori in modo che possano toccare liberamente tutti i modelli senza nessun pericolo, e con una trovata che è il distanziatore in legno, che è una cosa che diverte molto i nostri visitatori più piccoli perché è una specie di tea in legno che serve per permettere alle guide di accompagnare i visitatori che in questo momento tengono gli occhi chiusi per sperimentare la conoscenza tattile mantenendo la distanza. E abbiamo scoperto che è una cosa così carina e così divertente anche per i visitatori più piccolini che credo continueremo anche a utilizzarla dopo che non ci sarà più bisogno, speriamo presto, di mantenere il distanziamento sociale. Per questa stagione ci fermiamo qui. Se volete continuare a scriverci, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una buona settimana e di una buona estate.